Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, come sempre ogni sabato sera a farvi compagnia, a farvi un po' da guida alla visione, finalmente in sala, finalmente con tante uscite anche questa settimana, con tante uscite direttamente dal Festival di Venezia che finisce fra pochi minuti praticamente. Dopo la fine della nostra trasmissione di fatto comincerà la serata finale di assegnazione dei Leoni del Festival di Venezia, che è stato il primo grande festival a svolgersi in presenza dopo la pandemia, il lockdown e tutto quello che concerne la crisi Covid. Nel frattempo però, dicevo, le sale pian pianino si stanno un po' riprendendo grazie anche all'andamento di un paio di film che le hanno un po' ritirate su. Siamo oltre i 4 milioni di euro di incasso, se non sbaglio, con Tenet di Christopher Nolan. È partito molto bene anche After 2. Insomma, gli esercenti tirano un mezzo sospiro di sollievo per il momento, perché ancora le masse che vanno al cinema, soprattutto durante il weekend, sono piuttosto relative. Però i film stanno cominciando ad arrivare. Noi parleremo di Venezia subito in apertura, poi sviscereremo pian piano tutti i film che da Venezia sono arrivati nelle sale cinematografiche. Sarà con noi tra l'altro Salvatore Mereu, che è il regista di Assandira, uno dei più interessanti film visti in questa edizione della Mostra del Cinema. E per parlare di Mostra del Cinema è in collegamento con noi proprio dal Lido Ilaria Ravarino. Ciao Ilaria! Ciao a tutti. Ilaria Ravarino, collega bravissima, io l'adoro, ma collega che scrive sulla carta stampata, noi, e quindi, come dire, ci si dà alla radio ogni tanto per farci un po' compagnia. Noi allora la utilizziamo molto molto volentieri. Con noi c'è anche già collegato Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno Ilaria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Boris, come dire, invece di famiglia da queste parti. Ilaria, cominciamo con te. La domanda è quella canonica, però quest'anno più che mai una domanda che vuol dire una cosa specifica. Che festival è stato questo Venezia 2020? È stato un festival storico, questo penso di poterlo dire senza sbagliarmi, per tanti motivi che forse hanno poco a che fare con i film e molto al momento, insomma, che stiamo vivendo. Un festival di cui probabilmente continueremo a parlare, che ci ricorderemo, spero tantissimo, con un sorriso, ecco, insomma, di questa strana decina di giorni in cui ci salutavamo con i gomiti, usavamo mascherine, prenotavamo film con delle app, cioè, che se ce l'avessero detto solo un anno fa, no? È una Venezia molto strana, molto particolare, in cui tutti sembrano un po' più felici del solito di vedersi, sembrano tutti più sinceramente felici di stare insieme, ed è una Venezia in cui paradossalmente i film ci sono, contano, ci sono anche dei film molto belli, ma non sono l'unico motivo per cui siamo qua. Ilaria, i motivi per cui a volte siamo là, tutti noi, oltre che vedere dei bellissimi film e raccontarli alla gente, è anche quello di intervistare i talent. Quanto è mancata quest'anno quella famosa presenza delle star americane da tappeto rosso, che negli ultimi anni Venezia ci aveva abituato ad avere anche in maniera abbastanza copiosa? Da una parte sicuramente è mancata, sai dove? Sul tappeto rosso. Come saprai, il tappeto rosso di Venezia quest'anno è stato blindato, no? Non potendosi assembrare le persone, è stato alzato un muro che ha impedito al pubblico di vedere chi sfilava sul red carpet. La mancanza di star internazionali di richiamo è unita a questa super importanza che hanno avuto ovviamente i fotografi, le televisioni lì, che erano di fatto gli unici che potevano rimandare un po' le immagini del red carpet, ha moltiplicato la presenza in campo di influencer, cioè i VIP, le star, quelli che portavano i brand della moda, dell'eleganza, insomma, quelli che di fatto poi tirano fuori i soldi, erano soprattutto influencer. Questo dal punto di vista, diciamo, delle curiosità frivolezze da red carpet è stato un primo sensibile cambiamento. Il secondo cambiamento è stato che chi come me sopravvive soprattutto facendo interviste ha avuto il grande piacere di fare degli incontri, non che incontrare le star non sia piacevole, i grandi star americane non sia piacevole, però magari va a discapito di tanti altri bellissimi incontri che puoi fare avendo più tempo. Ecco, quest'anno devo dire che forse è stato l'anno in cui ho avuto l'occasione di parlare con autori, registi tra i più interessanti che mi sia capitato di conoscere in tanti anni di lavoro. E beh, questa è sicuramente un'esperienza allora che ti porti dietro. Io adesso, tanto a Ilaria quanto a Boris, faccio un elenco, quello che potrebbe essere il Toto Leone a pochi minuti praticamente dall'assegnazione. Si dice che ci sia fra i grandi favoriti Notturno di Gianfranco Rosi, che pure ha diviso molto, è piaciuto più di quanto non sia piaciuto, ma a chi non è piaciuto davvero, e ha ricevuto critiche molto, molto forti, però Notturno pare essere uno dei papabili. Poi ci sono degli outsider che sono Dear Comrades o Nuevo Orden, e poi ci sono quattro film di registe donne che potrebbero mettere il graffio del leone a segno, e sono Miss Marx, Le sorelle Macaluso, Nomadland e di Chloe Zhao e The World to Come. Allora, Ilaria, so che a te è piaciuto Le sorelle Macaluso, ti chiedo in un minuto di dirmi perché potrebbe vincere Le sorelle Macaluso. Guarda, Le sorelle Macaluso innanzitutto riesce a raccontare una famiglia con un'intensità, una sincerità, una cattiveria che nel cinema italiano si è vista di rado. Madante ha davvero una capacità di raccontare, di mettere in scena sentimenti anche terrificanti con estrema facilità. È un film con un personaggio in più che è la casa. Questa casa in cui vivono le sorelle è incredibile, cresce, si sviluppa e muore durante il corso del film. È un film che fa piangere, che spezza il cuore in tante parti e che ha un inizio strepitoso. Secondo me qui Emma Dante fa davvero un passo in avanti verso l'autorialità anche come regista cinematografica. E invece Boris Sollazzo, sempre in un minuto, spiegami perché potrebbe vincere Notturno, nonostante le critiche. C'è chi ha parlato di pornografia estetica, insomma, chi non ha gradito il fatto che Rosi, che ha già vinto un Festival di Venezia con Sacro Gra, ricordiamolo, abbia cercato di creare l'immagine più bella anche su un dramma come quello della Siria e del Medio Oriente. Però, come dicevo, per molti è il vero favorito. Tu cosa ne pensi? Ma proprio per questo motivo, perché un grande regista secondo me deve avere la capacità di metterti a disagio. Gianfranco Rosi mi mette costantemente a disagio, perché non ha mai negato, e in questo senso le polemiche le capisco veramente pochissimo, un valore estetizzante ai temi perlomeno ambigui che tratta, che siano la povertà sul raccordo anulare, che siano un assassino, che sia appunto il conflitto in Medio Oriente, al confine tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. E lì c'è sostanzialmente una sorta di atto di fede. Se quel tipo di cinema non ti piace, non potrai mai amarlo Gianfranco Rosi. Se invece dai al valore del cinema qualcosa di superiore, al valore dell'arte qualcosa di superiore, se pensi che un documentario non debba fare solo storia, ma debba guardare, debba raccontare, e allora questo film che in qualche modo mette in scena, non fa mistero di farlo, la verità, che racconta i visi, racconta le storie senza pretendere di dare delle risposte spesso ideologiche a un conflitto incomprensibile e devastante come quello del Medio Oriente, e allora non c'è ragione perché non vinca. Ti dirò, Gianfranco Rosi è un regista con cui io non sono mai d'accordo e che però non smetterò mai di guardare. Assolutamente, è proprio questo che deve fare anche il cinema, come giustamente dicevi tu, Boris. Ricordo che Notturno di Gianfranco Rosi e Le sorelle Macaluso di Emma Dante sono in sala, sono al cinema e li potete già trovare. Io saluto Ilaria Ravarino, che è stata con noi. Vai, corri in sala stampa per scrivere le ultime cose sul Leone d'Oro di Venezia, e ci risentiamo presto. Grazie a voi, ciao, buona trasmissione. Boris, tu invece rimani con noi, perché fra poco c'è Assandira e con noi c'è Salvatore Mereu, il regista che ce lo racconta. Ma poi torniamo da te con un altro film molto interessante che si intitola Non odiare, che rilancia in qualche modo, non dico la carriera, ma sicuramente un percorso artistico di Alessandro Gassman. Fra poco. La rosa purpurea. Per tutta la vita mi hanno educato a non credere a nulla, a non lasciarmi andare al desiderio. Per fortuna però cambia anche il giro. Ciao, va. Nonno, ciao. Venivano ogni estate a trovarmi, insieme alla sua compagna. Questa volta ci fermiamo anche un po' di più. Il turismo, qui che adesso rendo. I teschi se ordine nome. Questo è Assandira. C'è gente del mio paese che vuole venire a vedere a antico lavoro di pastore. Tu non sei mai stato a pastore. Tu ci sei mai qui a narrare. Bah, io sto dicendo per finta. Sarà la nostra reggia. E qui attorno ci faremo anche un bel villaggio di capanne. E chi devo fare di vino qui? Te stesso. Le suggestioni sonore di Assandira, il film di Salvatore Mereo passato a Venezia, suggestioni sonore quanto mai importanti per entrare nel clima ancestrale di un film che è pregno proprio della sardità, della Sardegna vera, che è quella che viene raccontata in questa storia dalle tinte noir, quasi thriller in certi momenti. La storia di un pastore settantenne, Costantino Saru, lo vediamo all'inizio sotto una pioggia battente prendere fra le braccia quel che resta del cadavere di suo figlio, un figlio grande, un figlio adulto, Mario, che ha perso insieme a tutta la proprietà di Assandira, appunto questa fattoria che aveva trasformato un po' tortocollo in una sorta di giro turistico nel passato, cedendo a quelle che erano le suggestioni, le spinte appunto del figlio e soprattutto della compagna del figlio, una donna tedesca che voleva trasformare questo lembo, questo avamposto di pastorizia in qualcosa che fosse una sorta di parco, non dico divertimenti, ma di parco ricostruzioni storiche, vestiti da pastore, far vedere cosa succede con i cavalli, cosa succede con le pecore, mungere gli ovini, tutto questo a favore di camera, a favore di occhi di turisti curiosi per un selfie, per una foto da far girare sui social. È una realtà che, come dicevamo, Costantino ha accettato molto molto malvolentieri, e il film parte dalla fine, parte da questo incendio che ha sconvolto tutto, distrutto tutto, comprese le vite degli animali e di questo figlio Mario che troviamo fra le braccia di Costantino. E voi invece fra le braccia anzi al telefono della Rosa Purpurea troviamo il regista Salvatore Mereu. Ciao Salvatore. Salve a tutti, buongiorno. Grazie per essere qui con noi a raccontarci questo Assandira che esce nelle sale cinematografiche italiane questo fine settimana, un po' in tutta Italia, visibile e trovabile, quindi sempre noi sfidiamo la curiosità dei nostri ascoltatori ad andare a cercare il buon cinema dove c'è. Allora, dicevo, tinte noir, quasi legal thriller in certi momenti, perché c'è un'inchiesta chiaramente che è quella che viene portata avanti dal magistrato di turno, ma è un'inchiesta che anziché portare dalle parti di una risoluzione giudiziaria, che pure arriverà a un certo punto, porta alla ricerca di radici che quell'incendio sembra in qualche modo avere, se non distrutto, sicuramente sepolto. Sì, è così. Il film comincia un po' alla maniera di Sansepulveda, c'è un morto e non è tanto importante capire chi sia il responsabile, è comunque, come hai detto giustamente tu, un thriller, e quindi c'è anche questo aspetto noir che sicuramente contribuirà a intrattenere lo spettatore, ma è soprattutto il come si è arrivati a quel morto. E dietro questo percorso c'è la storia di quest'uomo, un uomo di 70 anni che forse la vita si era già dimenticato e che a un certo punto viene tirato in causa in questa avventura quasi da reality, dove il figlio insieme a sua nuora hanno intenzione di costruire un parco di attrazioni in quello che era il loro terreno di famiglia. Le cose vanno bene fino a un certo punto, ma poi tutta la cosa scappa di mano. Io non vorrei anticipare molto. Direi di no. Perché essendo anche un poliziesco è interessante scoprire man mano quello che succede. Certo. Però dietro questa avventura c'è la racconto di una deriva che ha appartenuto alla Sardegna, ma che secondo me riguarda tutti, e cioè un uso smodato della tradizione a vantaggio magari solo del bieco profitto, dove non si guarda alla dignità umana. E poi insieme a tutto questo c'è questo desiderio ormai che appartiene a tutti di autorappresentarci. Ormai non si vive più il presente, l'immediato, ma l'esperienza viene sostituita dalla sua rappresentazione. Questo ricorso smodato, come il film c'è con le Polaroid, perché da questo punto di vista il libro da cui il film è tratto ha una grande valenza profetica, è la cosa che vediamo tutti i giorni, insomma, noi ormai non riusciamo neanche più a godere di un piatto, certo, perché ci sostituiamo al piacere di assaggiarlo con la sua rappresentazione, con la sua messa in scena, assolutamente, esatto, così com'è una messa in scena, quella della tradizione, esatto, che avviene dentro, esatto, dentro a Sandira. È una figura centrale di questo film e trovo che sia una scelta stupenda quella di Gavino Ledda, avere questa figura, no, al centro del film, lo scrittore di Padre Padrone, ma come dire, sembra proprio una sorta di rappresentazione carnale dell'anima sarda. Sì, Ledda, sì, è da questo punto di vista è una figura fortemente iconica che richiama davvero, ha iscritto nel viso un mondo arcaico che si trova a confliggere con la modernità, che in questo caso è rappresentata dal figlio, e da questo conflitto poi nasce l'intreccio e il vero spunto interessante di Assandira, che sì, come hai detto tu prima, è un thriller, è un poliziesco, ma è anche la storia di una famiglia ed è un dramma familiare che ha un epilogo e una movenza che è tipica della tragedia, insomma. Salvatore, esteticamente, a livello proprio di visione cinematografica, tu hai usato una fotografia a tinte fosche e chiaramente ci sta dentro questo film, ma in certi momenti mi è venuto in mente un film che c'entra, perché secondo me c'entra un po' nell'ancestralità, nel rapporto con la terra, nel thriller poliziesco, nel chi è stato, nell'esterno che arriva in un mondo, come il magistrato, a capire cosa è successo. E questo film è La Isla Minima, che è un film dei più belli, secondo me, usciti negli ultimi anni. Non so se tu avevi avuto modo di vederlo, se c'è un accostamento possibile. Sì, credo di averlo visto. Sì, anche là si racconta la provincia e sì, come in un gioco di scatole che si aprono, si arriva poi alla fine alla verità. Anche a Sandira ha una struttura così quasi da matriosca, no? Tu hai una realtà apparente che si presenta agli occhi del magistrato inquirente, che cerca di raccogliere i pezzi attraverso un lungo interrogatorio al personaggio principale e poi pian piano, scatola dopo scatola, arrivi a scoprire la verità e come sono andate le cose. Il paragone mi sembra calzante. Beh, insomma, è sicuramente stato un film anche appunto nell'estetica che ha raccontato la provincia lontana dalle allegrie, diciamo così, tipiche, invece l'ha raccontata appunto con tinte noir, come fai tu con la tua Sardegna. Salvatore, dicevamo prima, il tuo film non è stato in concorso a Venezia. Io personalmente non voglio parlare di errore, c'è chi seleziona, fa il suo mestiere, però diciamo che vedendolo ho detto questo era un film da concorso, proprio per come alza l'asticella del racconto cinematografico, che è quello che a mio modo di vedere dovrebbe fare un concorso del livello di quello di Venezia. Ti è pesata la decisione? Sei scontento di questo? Mentirei se dicessi che non lo fossi, perché comunque sappiamo che il concorso dà al film una visibilità che in una sezione pure prestigiosa come il fuori concorso non hai. Il fatto stesso che i grandi quotidiani ormai recensiscono soltanto i film in concorso ti dà la misura di come avere una collocazione diversa ti mette in una posizione di grande svantaggio, soprattutto per arrivare al pubblico in un momento in cui davvero te lo devi cercare, perché, come dire, la pandemia ha creato uno smarrimento generale, per cui oggi le persone le devi andare a convincere per tornare in sala, per cui, sai, in termini mediatici il concorso fa sapere al mondo che il film esiste. Assolutamente. Poi, è vero, molti hanno rimarcato questa cosa qua, io sono nella posizione di chi è ospite in una grande manifestazione e certamente non può dire avete sbagliato la stanza e mi avete dato. Io sono sempre grato a Venezia per essere stato invitato, ci sono stato parecchie volte e quindi poi, sai, i film si misurano alla prova del tempo. È vero che la prima presentazione in un certo senso ne determina il loro corso, però poi diventa importante quanto il pubblico riesce in qualche modo nella sua esperienza della visione a passare un segnale ad altri e quanto poi, certo, il film si radica nella coscienza di tutti. Il famoso passaparola. Diciamo, il festival serve per rompere il ghiaccio. Ecco. Certo. Beh, l'ha rotto bene. Noi questo consiglio lo diamo, invece. Andate a vedere a Sandira, perché è un film che lo merita. Grazie a Salvatore Mereu e insomma buone cose con questo a Sandira che comincia il suo percorso in sala e speriamo che duri molto. Settimana, quindi in tutte le città. Grazie. Salvatore Mereu alla Rosa Purpurea per raccontarci Assandira, un altro dei tanti film veneziani che arrivano in sale in questo fine settimana. Noi giochiamo insieme prima di dare la linea alla regia, perché è arrivato il momento di farvi ascoltare la prima traccia del nostro film misterioso. Posso aiutarla? Beh, sì, sì, che può. Sono qui per denunciare un crimine terribile. E allora, traccia cattivella, piccola, breve, un uomo, una donna e un crimine terribile da denunciare. Se avete già indovinato il film, siete molto bravi, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano, di cui vi faremo ascoltare fra poco un'altra traccia. Adesso, linea alla regia, fra poco torniamo insieme, proseguiamo con le uscite direttamente da Venezia. La settimana della critica c'era Non odiare, ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, sempre con i film che da Venezia arrivano, rimbalzano nelle sale cinematografiche italiane. Come dicevamo, quest'anno sono tanti rispetto al solito, quelli che hanno approfittato subito del weekend finale di Venezia per arrivare in sala. In qualcosa come 225 sale cinematografiche italiane, che sono tante per un'uscita di un film indipendente italiano, arriva Non odiare di Mauro Mancini con Alessandro Gassman e Sara Serraiocco e Luca con la K, protagonisti assoluti. Tutto comincia da qui. Mi sente? Come si chiama? Antonio. Antonio, sono un medico, ho chiamato l'ambulanza, arriverà tra poco. Lei cerchi di respirare profondamente e di non addormentarsi, va bene? Io cerco di fermare l'emorragia qui. Il dottore che cerca di fermare l'emorragia su Antonio, che è stato speronato da una macchina che poi è fuggita in fin di vita, è Simone Segre, che ha il volto appunto di Alessandro Gassman. Simone Segre è un medico ebreo, siamo negli anni nostri, siamo nel nostro presente, stava facendo canoa sul fiume lì vicino, sente questo rumore, sale alla macchina e vede quest'uomo insanguinato in fin di vita con un'arteria recisa che da lì a poco lo lascerà senza vita. Fa un gesto che è un gesto da medico, è un gesto da giuramento di Ippocrate, cioè cerca di curarlo e di salvargli la vita, ma poi scopre sul suo petto, sul petto di questo ferito, una croce uncinata e il simbolo delle SS. E lì da ebreo qualcosa scatta in lui e probabilmente decide quello che l'istinto gli dice in quel momento, prima ancora che pensare alla sua professione, alla sua missione nel mondo. Da lì però parte un film, non spoileriamo niente perché tutto succede nei primi due minuti. Da lì però parte un film di rimorso, di tentativo di rivalsa, di analisi anche in una giungla che è quella neofascista, neonazista, e in quello che è il modo di approccio di questo personaggio interpretato da un Alessandro Gassman, devo dire che non per la prima volta, ma insomma mi è piaciuto molto per come si è staccato dalla sua provenienza più accademica, più teatrale, nella recitazione un po' declamata, invece è riuscito a entrare nella naturalezza del personaggio. Boris Sollazzo, questo Non odiare è un film con qualche incongruenza magari narrativa, ma mi sembra con una messa in scena molto convincente e con un Alessandro Gassman in gran forma. Io l'ho trovato un film clamoroso perché è un esordio, l'esordio di Mauro Mancini, e ha una maturità nel raccontare un contenuto incandescente, straordinaria, la stessa maturità che dimostra Alessandro Gassman in una recitazione che, come dici tu, rifiuta l'impostazione accademica che aveva portato avanti spesso, non sempre, ma spesso nella sua carriera, per un'interpretazione essenziale, straordinariamente contenuta, che rifiuta la grazia, rifiuta l'istrionismo, per andare al cuore di quest'uomo spezzato che si trova di fronte a una sfida ingiusta, impossibile. La vita l'aveva già ferito abbastanza, e si ritrova, no? Cioè, come in un proverbio al contrario, ricordate il proverbio che diceva sedetevi in riva al fiume e vedrete il cadavere del vostro nemico passare. Lui invece sul fiume stava andando a canoa e se lo ritrova il possibile cadavere del proprio nemico. Poteva essere una storia moralista, poteva essere una storia politicamente corretta, poteva essere una favoletta, pur nella difficoltà di un tema così enorme che è quello dell'antisemitismo, che è quello del fascismo, di chi lo vive come una serie di rituali, come un look, come una voglia di rivalsa per la propria adolescenza e di emulazione per il proprio padre, e invece diventa tanto altro. Lo diventa grazie ad Alessandro Gassman, lo diventa grazie a Sara Serraiocco, che è la figlia Marica di quest'uomo che appunto ha questo incidente e che incrocia la propria vita con Alessandro Gassman. Sara Serraiocco, che a mio parere è una delle attrici più interessanti e più importanti del panorama delle attrici italiane, anche per quella grazia complessa che sa sempre esprimere nei suoi personaggi, ne esce fuori un racconto umano che, quando sta per diventare prevedibile, ti spiazza costantemente, perché non sceglie mai la soluzione più banale. È un'opera scritta meravigliosamente, interpretata benissimo, a mio parere è la migliore interpretazione di Gassman, e mi aspetto dei premi per Gassman, e lasciatemelo dire, il fatto che un esordio alla regia sia così coraggioso, sia così privo di compromessi, mi rende orgoglioso del cinema italiano, e mi rende orgoglioso anche della settimana della critica, perché Gianna Nazzaro continua a dimostrare una capacità di scelta davvero straordinaria. E questo per quel che concerne Non odiare, con Alessandro Gassman, nelle sale cinematografiche. Noi siamo alla seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Sto per scoprire che un sacco di gente in questa città mi vuole morta. E il primo della lista è questo signore. E allora dovete pescare nel mondo, nell'universo fumettistico, in qualche modo supereroistico, anche se qui siamo di fronte a una supereroina un po' sui generis, molto sensuale, molto bella, un'attrice che ha avuto grande seguito durante la scorsa stagione. Fine degli indizi: se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it col titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco vi diremo, vi sveleremo tutto, e vi ricordo anche che fra poco giocheremo con una consuetudine ormai per la Rosa Purpurea, quella di un weekend che regaliamo ai nostri ascoltatori a Salso Maggiore per il Festival Mangia Cinema. Ne parliamo fra poco. Adesso è il momento di passare a un altro film che arriva da Venezia nelle sale cinematografiche italiane. Si chiama Spaccapietre. Non ti preoccupare, papà mi ha detto che mamma ritorna. E tu mi hai fatto all'occhio? Spaccavo le pietre in una cava e una scheggia. E da quel giorno il suo occhio è diventato tutto bianco e ha iniziato ad avere superpoteri. Era duro il mestiere di spaccapietre. Abbiamo parlato di ancestralità con Salvatore Mereu e con Assandira. Beh, ce n'è tanta anche nel tema peggiore, diciamo, nel senso e nell'accezione peggiori, in Puglia, nella Puglia contemporanea, che però sembra cristallizzata nel passato, di Spaccapietre, il film, ancora un film da Venezia, questa volta dalla Giornata degli Autori, che arriva nelle sale cinematografiche italiane, film dei fratelli De Serio, altri due fratelli del cinema, un po' l'anno dopo Favolacce con i D'Innocenzo, un film con Salvatore Esposito, volto noto anche di tanta fiction TV, di tanta serialità televisiva, protagonista assoluto, ed è un film che scava nel tema purtroppo ancora aperto, ancora irrisolto del caporalato. Boris. Beh, Spaccapietre intanto dimostra la vitalità straordinaria del sezioni collaterali del Festival di Venezia, perché appunto, come ricordavi, parliamo della Giornata degli Autori, che quest'anno tra l'altro vedono una direttrice artistica donna, Gaia Furrer, e dimostra anche come quando i registi escono dalla loro comfort zone riescono a fare delle cose molto interessanti. De Serio erano molto più sperimentali, qui diventano più Dardenne, se vogliamo, raccontano una storia che non è la prima volta che vediamo, no? Una mamma che muore di fatica, sembra quasi il sequel di Sole, Cuore, Amore, un racconto di caporalato e di lavoro che è precario esistenzialmente prima ancora che economicamente, ma è anche un racconto identitario, perché lo spaccapietra era il nonno del piccolo protagonista. C'è anche un orgoglio in quel lavoro che diventa in quel momento però foriero solo di sofferenza. Anche qui, come in Non odiare, ci sono rapporti familiari che scavano nei protagonisti. Anche qui c'è un protagonista inaspettato come Salvatore Esposito, che tutti ricordiamo per Gomorra, ma che sta facendo da anni un lavoro per uscire fuori da quell'archetipo, facendo commedie molto particolari e anche drammi come questo, che riesce a sostenere il film anche quando magari in alcuni casi inciampa in soluzioni narrative non perfette, in un'ideologia che inevitabilmente rischia di arrivare. Quell'occhio ferito di Salvatore Esposito diventa una sorta di abito con cui lui costruisce un padre che anche egli deve trovare una nuova identità, e la deve trovare specchiandosi in quel bambino e in una fuga costante. Il racconto è bellissimo a livello registico, senza alcun dubbio anche le location diventano parte e personaggi della storia. È bellissimo a livello umano perché racconta l'inenarrabile: un figlio che perde una madre, un marito che perde una moglie, vite al limite, vite ai margini, che però pretendono di esistere, pretendono di conquistare la propria luce. È un'opera che secondo me conferma che i De Serio sono tra gli autori più interessanti di questo momento. È interessante che abbiano cercato di costruire una rotondità narrativa che in passato magari rifiutavano, e questo secondo me è anche un segnale di maturità, di inclusione. È un'opera difficile, da spaccapietre appunto, che pretende la massima attenzione da parte dello spettatore, ma è un'attenzione che verrà ripagata. Spacca pietre, quindi, dalle giornate degli autori alla sala cinematografica, per chiudere, come avete visto, l'ampio panel di film che da Venezia si sono spostati nei cinema, che noi come sempre vi esortiamo ad andare a frequentare, perché come avete visto il materiale ricomincia a fluire. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E linea allora alla viabilità, fra poco torniamo insieme e apriamo i nostri fari, i nostri riflettori su un festival di cui siamo ormai partner da tanti anni, Salso Maggiore Mangia Cinema, un festival che mette insieme la buona gastronomia di quella zona strepitosa delle terre verdiane, del Parmense, eccetera, con il cinema più goloso, diciamo così. Ne parliamo fra poco con il suo direttore Gianluigi Negri, ed è pronto per voi un weekend a Salso Maggiore. Tenete pronto il numero di SMS della nostra emittente, 349-238-6666, perché lì dovrete rispondere a un quesito che vi faremo fra poco per vincere un weekend a Salso Maggiore. Viabilità. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli, ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione vedere i miei compagni. Nella didattica a distanza quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, per me è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre, nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. La rosa purpurea. Signor Orecchia, attenzione. Io che tipo di zona uso? Che uso io? La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecon. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della Bizzona! La Bizzona di Lino Banfi, l'allenatore del pallone, con cui apriamo la quarta parte della Rosa Purpurea. Perché? Perché l'omaggio alla grande commedia un po' godereccia, un po' sopra le righe, diciamo, con Lino Banfi, il cinema di Lino Banfi, Baffi, con Sergio Martino, regista, e con tutto questo mondo che ci siamo portati dietro, che un po' ci ha fatto crescere negli anni 70-80, sarà uno dei temi dominanti, diciamo, di Mangia Cinema, festa del cibo d'autore, del cinema goloso, che come ogni anno Gianluigi Negri porta in scena, l'instancabile Gianluigi Negri porta in scena a Salso Maggiore Terme dal 16 al 23 settembre 2020. E quindi noi abbiamo voluto dare adito in questa puntata, dare il via, dare lo spazio a questa, a questa manifestazione, perché come ogni anno la Rosa Purpurea insieme a Mangia Cinema regala due notti, un weekend bello intero per una coppia in B&B a Salso Maggiore, per chi risponderà fra poco a una domanda che riguarda proprio il cinema di Sergio Martino e di Lino Banfi, la loro relazione. Il nostro numero di telefono, di SMS è 349-238-6666. Dovrete scriverci fra poco una risposta a una domanda che vi faremo. Tenetevi pronti. Nel frattempo saluto Gianluigi Negri, direttore artistico, inventore, fondatore, deus ex machina, factotum di Mangia Cinema e anche di Mangia Musica, che tra l'altro ha il suo quinto anno proprio inserito nel palinsesto di Mangia Cinema. Ciao Gianluigi. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Quante cose che hai detto, quanti titoli che hai detto. Ma sono quelle che fai tu, sono tante le cose che fai tu e sono tante le cose che dobbiamo dire noi. Non sono ancora allenatore però, ecco, non giochi ancora con la bizzona. Allora, esatto. Intanto la squadra degli ospiti, abbiamo detto l'omaggio al cinema di Lino Banfi, con la presenza, certo, di Sergio Martino, certo, con cui si potrebbero in parlare, esatto, si potrebbe parlare di 15 giorni di cinema con Sergio, vero, Martino. Partiamo da qui, da Sergio Martino, dai grandi ospiti, citerai tu, ma sono tutti grandi nomi. Tra l'altro qualcosa riguarda anche il sottoscritto, che sarà lì sabato sera a dare un premio, però insomma vai, che tu sei bello veloce, dai, in carrellata con i grandi ospiti di questa edizione. Dico tutto Franco, allora Mangia Cinema si apre mercoledì 16 settembre a Salso Maggiore con Sergio Martino, premio Mangia Cinema, creatore di sogni, e ci spiegherà lui che cos'è la bizzona dopo averla sentita per anni raccontata da Lino Banfi o Ronzo Canà. Poi i grandi nomi del cinema sono Pupi Avati, che chiude il festival mercoledì 23 settembre e ritirerà il premio Mangia Cinema, creatore di incubi. Venerdì 18 settembre, un'altra serata da incorniciare memorabile, i 35 anni di Demoni, 40 anni di carriera da regista di Lamberto Bava, l'anteprima nazionale di un nuovo libro di Lamberto Bava Il Terzo Giorno, i 45 anni di Profondo Rosso, due premi Mangia Cinema, creatore di incubi con Lamberto Bava e Claudio Simonetti, e con un live di Simonetti, cioè tanta roba. Il sabato sera, sabato 19 settembre, con protagonista Franco D'Assisti a presentare, a fare un po' da cerimoniere, una serata che io adoro per i temi che tratta, perché parleremo con voi, con te e con i protagonisti che ora annunciamo, dei varietà del futuro, di quelli che Umberto Eco definiva varietà del futuro, ma parleremo di storia della televisione, di storia del cinema, con chi? Con i gemelli Ruggeri, 40 anni di carriera, e con il mitico Stefano Disegni. Tutti e tre, sia i gemelli Ruggeri che Stefano Disegni, riceveranno il premio Mangia Cinema Pop nella serata Lupi Solitari, Arabe Fenici e Matriosche, e ne vedremo e gusteremo delle belle. Ci sono anche tante storie del cibo dentro Mangia Cinema, perché siamo Mangia Cinema, e poi c'è la parte della musica, ma io dimentico un altro personaggio pop, che forse è il re del pop in questo momento, è Gabriel Garco. Gabriel Garco sarà ospite di Mangia Cinema venerdì e ritirerà il premio Mangia Cinema Pop, ci parlerà del suo rapporto con il successo e anche del lato oscuro del successo, e sarà un incontro molto interessante, perché ha pubblicato un libro nel quale si mette a nudo raccontando che cosa c'è dietro questo mondo dorato della popolarità, che si chiama Andata e Ritorno. Se mi permetti, per la parte della musica ti darei alcuni nomi, perché abbiamo uno spettacolo bellissimo con Omar Pedrini, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, ed è la leggenda di John and Lennon, scusami, di John and Yoko, sui 40 anni della scomparsa di John Lennon e gli 80 della nascita. Un recital in esclusiva di Alberto Patrucco e Andrea Mirò per bere champagne, dedicato a Gaber, ma anche in parte a Brassens, nei 50 anni della canzone mitica di Gaber, Barbera e Champagne. Insomma, sarà una c'è tanta, ricca, tanta carne al fuoco, ma come sempre, grande edizione, fatta con grande generosità e grande entusiasmo da Gianluigi Negri, che di solito dimagrisce 15 kg durante questi sei giorni, cosa che a me non riesce, per esempio, quando vado lì, perché si mangia anche molto bene. Detto questo, è il momento di invitare i nostri ascoltatori a partecipare al nostro diciamo quiz per poter essere appunto lì a Salso Maggiore per il weekend che comincia venerdì 18 settembre, finisce domenica 20 in trattamento di B&B per una coppia. A chi risponde al 349-238-6666 a questa domanda: quanti film ha fatto Sergio Martino insieme a Lino Banfi? 5, 7 o 9? Dovete scrivere la cifra di quanti film ha fatto Lino Banfi con Sergio Martino, 5, 7 o 9, mandando un SMS al 349-238-6666. Basta solamente il numero che avete scelto o che sapete, e i primi ascoltatori che risponderanno saranno ricontattati dalla nostra segreteria da lunedì per poter essere presenti a Salso Maggiore, a Mangia Cinema, nel weekend che va dal 18 al 20 settembre. Ripeto ancora, quanti film ha fatto Lino Banfi con Sergio Martino? 349-238-6666. Le risposte possibili sono 5, 7 o 9. Trovate quelle esatte e vi aspettiamo e vi stringiamo la mano a Mangia Cinema. Grazie Gianluigi, buon lavoro come sempre, ci vediamo lì. Grazie Franco, a prestissimo, ciao. E allora, questa era Mangia Cinema, come sempre tantissima carne al fuoco dal buon Gianluigi Negri. Noi siamo arrivati al momento di riascoltare una clip del nostro game di 7 giorni fa. Che le succede? No, che vuol dire non ce la faccio? Il pubblico aspetta di sentirla cantare. Ho la gola secca, sarebbe un disastro. No, mi ascolti. E allora, i vincitori di Blu-ray, si trattava di Judy, il film con René Zellweger su Judy Garland, lo avevamo già svelato la settimana scorsa, ma i vincitori sono Agnese Rinaldo di Ferrara e Andrea Cristiani di Alessandria, i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Judy, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Nonostante le lettere glitterate che compongono il titolo, dopo un prologo che definirei struggente, quello di Judy Garland non è mai stato un mito glamour. Judy cantava dell'America delle fiere e delle fattorie, con la voce sempre più ovattata dalla dieta di sigarette e barbiturici. E René Zellweger, i connotati sfigurati da un documentatissimo prima e dopo la chirurgia plastica, è perfetta, direi, per interpretarla. Non perché tanto di Garland faccia una riproduzione mimetica, ma perché ne fa rivivere, forse suo malgrado, l'incarnazione più crepuscolare e angosciosa, e rende il film, questo biopic sontuoso, tutto sommato corretto, con un'anima. DVD e Blu-ray con scene eliminate dietro le quinte. E questo era il nostro game della scorsa settimana. Giulio, invece, pescando nei palinsesti in chiaro della prossima, su Rai 3, domenica 13 settembre a 12:30, troviamo un film di Aki Kaurismäki, L'altro volto della speranza. Sì, un film di Aki Kaurismäki è un film da non perdere, uno che riesce a stare tra Chaplin e Bresson, tra il cinema del fronte popolare e la bande dessinée, è uno che lo continueremo a ripetere tra i 3-4 maestri del cinema d'oggi, uno dei pochissimi che sa che cos'è il cinema comico, ne sa inventare i tempi, i ritmi, il tono, uno che sa quali sono le tragedie del mondo, che tu sia finlandese o siriano, che sia da questo o da quel lato della speranza, che continua a chiamare per nome. Questa è la storia di un immigrato, la storia della civilissima attitudine con cui le autorità accolgono i clandestini per poi imperturbabili rispedirli a casa, della compostezza in cui cova la violenza, la rabbia, l'indifferenza, e l'unica arma con la quale contrastarle, Kaurismäki lo sa, è la pietà di chiunque sia ancora in grado di guardare e capire, di chiunque sia ancora umano. Chapeau. E allora L'altro volto della speranza di Kaurismäki, domenica 13 settembre su Rai 3, 12:30. Invece si va più sul pop, martedì 15 settembre su Canale 5 alle 21:20, quando c'è Star is Born. Quarta versione cinematografica di una storia scritta negli anni 30 da Dorothy Parker, William Wellman, Robert Carson e Alan Campbell, ma sembra inventata dal produttore David O. Selznick. È un pezzo di immaginario americano che qui si lega a quello più musicalmente pop grazie alla presenza di Lady Gaga, che è Ellie, cameriera dalla bellezza irregolare ma dalla voce grandiosa, scoperta per caso da Jackson Maine, rocker sulla breccia nonostante l'insidia dell'alcolismo. La fine è nota, ci si commuove al punto giusto, si resta di sasso di fronte a due monologhi clamorosi di Sam Elliott, certo di fronte ad alcune banalità è meglio turarsi il naso o le orecchie, ma le scene dei concerti veri e tonanti valgono tra le cose il prezzo del biglietto, o direi in TV il prezzo del nostro tempo. E quindi è Star is Born, martedì 15 settembre su Canale 5 in prima serata alle 21:20. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre non ci resta che l'epilogo, svelare il film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Birds of Prey, con Margot Robbie. La prossima settimana recensione e come sempre i vincitori del nostro game. Noi ci sentiamo sabato alle 18 con tutto il cinema che c'è. Alla Rosa Purpurea. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.